Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Polmonite bilaterale precoce per Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele. Per i medici le sue condizioni non destano preoccupazione. Scuola, congedi e smart working per i genitori di under 14 in caso di quarantena dei figli. Dal CTS sì anche alle mascherine di stoffa. Il super bonus del 110% per l'edilizia diventerà strutturale, l'annuncio del ministro Patuanelli. Vaccino, l'Europa accelera, pronte le prime dosi già a novembre. Calcio, stasera torna in campo la nazionale di Mancini a Firenze contro la Bosnia. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Come avete sentito dai titoli, partiamo dalle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato da ieri sera all'ospedale San Raffaele di Milano per la presenza di sintomi legati al coronavirus. Allora, tutti gli aggiornamenti con Katia Caramelli. Sì, buongiorno, il primo bollettino medico sarà emesso nel pomeriggio alle 16. Da quanto tuttavia già trapelato, Silvio Berlusconi sarebbe stato trattenuto al San Raffaele di Milano per una polmonite bilaterale precoce. E quanto infatti avrebbe evidenziato un TAC, cui è stato sottoposto il leader di Forza Italia, che avrebbe quindi spinto il medico personale di Berlusconi, Gian Grillo, a trattenerlo in ospedale, dove Berlusconi è arrivato intorno alla mezzanotte proprio per accertamenti. In isolamento domiciliare ad Arcore da mercoledì, dopo essere risultato positivo al Covid, l'ex premier non è in terapia intensiva e si trova in una stanza isolata del settore D. Il ricovero, spiegano dal suo staff, è stato soprattutto suggerito per ragioni legate all'età, 84 anni, e alle patologie pregresse. Ricordiamo che anche la compagna di Berlusconi è risultata positiva e anche i figli Luigi e Barbara. E per il momento è tutto. Grazie, allora a te Katia, e naturalmente se ci saranno degli aggiornamenti, delle notizie, ma il primo bollettino è fissato per le 16 di oggi pomeriggio, quindi probabilmente non ci saranno notizie, ma insomma siamo in onda fino alle 14 e poi naturalmente anche più avanti. Adesso parliamo di scuola, perché ancora una volta, perché a 10 giorni dall'avvio dell'anno scolastico arrivano delle ulteriori novità sul fronte della sicurezza sanitaria. Via libera dal CTS alle mascherine di stoffa al posto anche delle chirurgiche, e poi il governo sta pensando ai test rapidi. L'inizio del nuovo anno scolastico preoccupa 7 genitori su 10 a lanciare l'allarme Save the Children sulla base di un'indagine condotta nel mese di agosto. L'ansia principale è alimentata dalle modalità di ripresa della scuola, seguita dai rischi legati al mancato distanziamento fisico e quindi dalle possibili variazioni di orario di entrata e uscita dagli istituti, orari che potrebbero essere incompatibili con gli impegni di lavoro dei genitori. Il governo, in vista della ripresa in sicurezza della scuola, scrive il Corriere della Sera, sta valutando la possibilità di fare tamponi rapidi a studenti, personale e docenti. In caso di esito positivo si eviterebbe così di paralizzare un'intera classe e il lavoro di tanti genitori. Il Consiglio dei Ministri intanto ha dato il via libera a smart working e congedi straordinari per genitori di figli under 14 obbligati a stare in quarantena a casa. La norma è contenuta nel decreto approvato ieri sulle misure anti-Covid per la ripresa dell'anno scolastico. E sulle mascherine in classe arriva una nuova precisazione. Gli studenti, secondo il Comitato Tecnico Scientifico, dovranno in via prioritaria utilizzare le mascherine chirurgiche che saranno consegnate ogni giorno dal governo, ma nulla vieta di utilizzare anche le protezioni stoffa, personali e lavabili, nel caso non fosse disponibile la mascherina chirurgica. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E in Italia ieri sono risaliti i contagi, 1397 positivi, 120 le persone ricoverate in terapia intensiva, anche questo è un dato in aumento. In Brasile superati 4 milioni di contagi con quasi 125.000 vittime. E intanto ieri sera la Commissione europea ha dato una accelerazione sul vaccino, annunciando a novembre le prime disponibilità di dosi per i paesi membri. Bruxelles ha firmato un contratto per 300 milioni di dosi del vaccino di Oxford. Quale sarà il vaccino per il coronavirus? È lunga la lista dei candidati nel documento riassuntivo aggiornato via via dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ad oggi sono 176 quelli in via di sviluppo. Di questi la gran parte è ancora ad un livello iniziale, mentre circa 33 sono quelli già testati sugli umani. E se il vaccino russo rimane avvolto dal mistero, negli Stati Uniti la pressione dell'amministrazione Trump sui ricercatori è sempre più palpabile. Anche l'Europa sta accelerando per avere le prime dosi di vaccino contro il Covid-19 entro dicembre. Saranno però solo i dati della fase 3 a confermarne l'efficacia. La Commissione europea sta trattando con varie aziende. I colloqui per il vaccino Pfizer-BioNTech sono nelle fasi finali. Un eventuale accordo con i due colossi consentirebbe di allestire un bouquet diversificato di 6 candidati vaccini realizzati dalle società più avanti nella sperimentazione. A questa ristretta cerchia si potrebbero aggiungere anche Sanofi e GSK, che hanno iniziato da poco la sperimentazione clinica di fase 1 e 2. Questa affannosa corsa alla cura non è però ben vista dalla comunità scientifica, che mette in guardia dai rischi legati a scelte troppo frettolose. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E intanto l'Istituto Superiore di Sanità ha dato nelle ultime ore il via libera alle visite dei parenti agli anziani ospiti nell'RSA. Anziani finalmente meno soli nelle case di riposo. Dopo un lungo isolamento per scongiurare altri contagi, arriva il via libera dell'Istituto Superiore di Sanità alle linee guida per la ripresa in sicurezza delle visite dei parenti e delle attività di gruppo tra gli ospiti delle strutture, che fino a questo momento erano state sospese come parte delle misure per il contenimento della diffusione del coronavirus. Una situazione di oggettivo isolamento che ha impedito di rivedere i propri cari ad almeno la metà dei 300.000 ospiti delle residenze per anziani, con conseguenze sull'umore, sulla psiche e sulla stessa salute. Ora il documento dell'Istituto Superiore di Sanità offre una cornice certa di regole ai direttori sanitari, visite non più lunghe di 30 minuti, prenotate e programmate in modo da evitare affollamenti, percorsi e locali riservati alle visite, guanti, mascherine e accurata igiene all'ingresso della struttura, distanza fisica di almeno un metro e divieto di baci e abbracci. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le altre notizie di cronaca adesso. Calogero Nicolas Valenza, cittadino italiano fermato in Egitto, è stato liberato oggi grazie al lavoro dell'ambasciata italiana al Cairo e alla collaborazione delle autorità egiziane, quello che fa sapere la Farnesina. Tragedia invece nell'Agrigentino, dove un migrante in fuga dal centro di accoglienza è stato investito da un'auto ed è morto lungo la strada 115, la statale 115. 3 agenti sono rimasti feriti. Un migrante morto, 3 poliziotti feriti e il bilancio del tentativo di fuga dal centro di accoglienza Villa Sicania di Siculiana in provincia di Agrigento. Il migrante, un eritreo di 20 anni, arrivato nella struttura il 1 agosto, è stato investito mentre scappava da una Volkswagen Touareg che si trovava a percorrere la statale 115. La stessa automobile ha investito i 3 poliziotti intervenuti per bloccare la fuga dei migranti. Sono stati trasferiti all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. 2 hanno riportato traumi e contusioni varie, il terzo invece una brutta frattura e dovrà essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Arrestato per l'ipotesi di omicidio stradale e fuga, l'automobilista è un 34enne di Realmonte, sempre nell'Agrigentino. L'incidente della notte è stato l'epilogo di una giornata drammatica. Un gruppo di migranti aveva protestato per l'intero pomeriggio e una ventina di loro si era anche arrampicata sul tetto della struttura d'accoglienza. Il sindaco di Siculiana, Leonardo Lauricella, è tornato a chiedere la chiusura del centro di accoglienza. Nina Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il super bonus al 110% sulle ristrutturazioni edilizie diventerà strutturale. L'annuncio arriva dal ministro dello sviluppo economico Patuanelli in un'intervista alla stampa. L'intendimento analogo, fa sapere Patuanelli, per tutto il pacchetto per l'innovazione, ma anche il trasferimento tecnologico e la decontribuzione per il lavoro dipendente. E proprio puntare a una riconversione ecologica dell'economia creando percorsi nuovi, originali per il bene comune, così come investire sulle nuove generazioni, è il messaggio che il Papa ha inviato ai partecipanti del Forum Ambrosetti, apertosi oggi a Villa d'Este a Cernobbio. Ad intervenire al Forum di Cernobbio anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che ha parlato della necessità di una svolta nell'agenda della diplomazia italiana dopo la pandemia. No a guerre commerciali, dice Di Maio. Sentiamo. Abbiamo concepito il patto per l'export proprio nei giorni più critici della pandemia come una strategia flessibile per favorire la ripresa delle nostre esportazioni. Crediamo che la capacità di modulare le risorse e gli strumenti a supporto delle imprese rispetto all'evoluzione della congiuntura economica rappresenti il valore aggiunto. Tirando le somme di questa panoramica, andando alle conclusioni, ritengo che l'Italia abbia un'agenda ambiziosa, risorse a sufficienza e occasioni importanti per ripartire e incidere sul mondo che verrà dopo la pandemia. Decreto semplificazioni al voto oggi al Senato, il governo ha posto la fiducia, sentiamo. Il rischio scissione c'è ed ormai non si nasconde più. I 5 Stelle sono in subbuglio dopo la fiducia alla Camera sul decreto Covid che conteneva la proroga dei servizi alla quale si opponeva la base. In 28 non hanno partecipato al voto. Ma la bagarre si sposta anche al Senato, dove il governo ha chiesto di nuovo la fiducia sul decreto semplificazioni e qui i numeri sono risicati, con il rischio per il governo. Per Luigi Di Maio è tempo di scegliere la nuova leadership. A livello parlamentare c'è un dibattito. Io credo che il movimento abbia estremo bisogno di una leadership forte. Il mio sostegno totale va a Vito Crimi, non è una critica a lui, ma è arrivato il momento che si dia una leadership legittimata. Si discute anche del ruolo di Rousseau. Una trentina di parlamentari sarebbero pronti a lasciare qualora la scelta della leadership fosse affidata al voto online sulla piattaforma di Davide Casaleggio. Tutto questo si incrocia con la partita delle regionali e con le mancate alleanze tra PD e Movimento in Toscana, Puglia e Marche, dove i Dem temono il fuoco amico 5 Stelle. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Questa sera alle 20:45 a Firenze, a porte chiuse, torna in campo la nazionale di calcio di Roberto Mancini che affronta la Bosnia nella prima partita di Nations League lunedì ad Amsterdam, poi la sfida con l'Olanda. Sentiamo il difensore della Roma Alessandro Florenzi esprimere parole emozionate per quanto riguarda la sensazione di giocare in uno stadio senza tifosi. Non sarà, tra virgolette, bello cantare l'inno, no? Ci trasciniamo tutti insieme, tutto lo stadio, a cantare con noi e ad emozionarci. Sarà sicuramente diverso, come è stato diverso ricominciare a giocare, ma è sicuramente un orgoglio in più, se ancora dovesse servire, indossare questa maglia per tutto un paese che comunque tutti sanno quello che ha passato e adesso si sta rialzando. 13:12, facciamo una piccola pausa, Effetto Giorno torna tra poco con tutte le altre notizie, gli approfondimenti, ripartiremo dalle novità sul vaccino. Ieri l'Europa ha annunciato le prime dosi già disponibili a novembre. 349-238-6666 per i vostri messaggi, a tra poco. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi, prossimo bollettino sanitario alle 16 per Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele con polmonite bilaterale precoce. Scuola, congedi per i genitori di under 14 in caso di quarantena dei figli, dal CTS sì anche alle mascherine di stoffa. Vaccino, l'Europa accelera, pronte le prime dosi già a novembre, ne parliamo tra poco con il professor Sergio Abrignani. Calcio, stasera torna in campo la nazionale di Mancini a Firenze contro la Bosnia. È con noi Sergio Abrignani, professore di patologia generale all'Università Statale di Milano, direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare in Vernizzi. Buongiorno Abrignani. Buongiorno. E grazie per aver accettato il nostro invito. Per commentare quelle che sono un po' le ultime notizie relativamente all'accelerazione sulla produzione e distribuzione di un vaccino, perché ieri sera la Commissione Europea ha annunciato la disponibilità delle prime dosi di un vaccino, quello di Oxford, dove c'è anche una presenza italiana, tra l'altro, dove c'è un contratto a 300 milioni di dosi, insomma già per il mese di novembre. Contemporaneamente notizia di oggi, Sanofi e GlaxoSmithKline annunciano passaggio a una nuova fase della sperimentazione che è un pochino più indietro questo ulteriore vaccino, ma anche qua tempi molto rapidi. Abrignani, la prima cosa che le voglio chiedere è proprio questa, cioè si sta andando molto velocemente, è possibile che i tempi di sperimentazione e di una produzione di un vaccino che normalmente sono molto più lunghi si siano accorciati così tanto? si sono sicuramente accorciati perché l'emergenza pandemica ha fatto fare delle cose che normalmente non si fanno. Le dico la più importante, che giustifica i tempi di cui si sta parlando. Normalmente nessuna azienda che produce vaccini, perché i vaccini producono le aziende, non i governi, nessuna azienda metterebbe in produzione un vaccino senza avere evidenze che esso sia efficace. In questo caso, vista l'emergenza pandemica, i governi di tutto il mondo, europei, americano, giapponese, hanno pagato le aziende per produrre dei vaccini di cui non si sa se funzioneranno, se saranno efficaci. Quindi questo è ciò che sta avvenendo, si è recuperato un sacco di tempo su questo, quindi quando i governi dicono che hanno opzionato la produzione di questi vaccini, vuol dire che hanno comprato centinaia di milioni di dosi di vaccini di cui però ancora non sappiamo se saranno efficaci e sicuri, e questo si saprà solo alla fine delle fasi 3, quando verranno valutate. Quindi, ecco, ma fino a questo punto a Brignani invece che cosa sappiamo su questi vaccini che appunto sono, per esempio quello della Oxford, sono già in fase 3, così come lo sono la Moderna o la CanSino in Cina? Cosa sappiamo, cosa abbiamo di acquisito? Quello che sappiamo acquisito sono gli esperimenti nei modelli animali, nei primati, nelle scimmie, nei macachi, in cui alcuni di questi hanno funzionato prevenendo malattia e infezione e malattia. Quello di Moderna con RNA, quello di AstraZeneca Oxford con vettori virali, o altri con vettori virali come CanSino o anche altri. Hanno iniziato la fase 3 qualche settimana fa o un mese fa, i migliori, e ci vorranno almeno 4-6 mesi in un mondo normale prima che si piaccia. Quindi questo è dove siamo. Ad oggi non sappiamo se nessuno di questi è veramente efficace e sicuro. Ecco, e per registrare un vaccino occorrono questi dati. Esatto, perché insomma il sospetto che c'è un po' è che questa gara, soprattutto tra gli Stati Uniti, la Cina, ma anche l'Europa, abbiamo detto l'Europa annuncia disponibilità già a novembre, il presidente americano Donald Trump ha detto più volte che entro le elezioni di novembre ci sarà già il vaccino, la Cina sappiamo pure che vuol correre anche per recuperare forse un aspetto di immagine sui sospetti della mala gestione iniziale della pandemia. Il sospetto che questa corsa possa compromettere il risultato finale, è un rischio che esiste secondo lei o no? No, non può comprometterlo dal punto di vista di un vaccinologo come sono io, perché un vaccino viene registrato e quindi immesso sul mercato e distribuito a centinaia di milioni, miliardi di persone solo quando si è completata la fase 3 e si hanno dati di efficacia e sicurezza. Poi che i governi dichiarino che ci sia una corsa, che vogliono essere i primi, va benissimo, che Putin, Trump o i cinesi lo dichiarino, però quello che sappiamo è che nel mondo occidentale ai soggetti sani un vaccino viene dato solo dopo che è stata completata la fase 3 di efficacia e vengono analizzati i dati. Poi se ci fosse una pandemia mortale con 50% di mortalità, perché alla fine è tutta fatta dalla votazione rischi-benefici. Questo, e quindi un vaccino è un'operazione medica che però viene data a soggetti sani, quindi potrebbe essere dato a soggetti sani quando ancora non si conosce sicuramente l'efficacia e la sicurezza, solo se i rischi che non fare nulla fossero estremamente elevati, cosa che oggi non sono. Quindi io non penso che possa compromettere nulla, perché un conto è il discorso politico di chi vuol prevalere. Certo. Ma scientificamente c'è solo un modo, che una fase 3 di efficacia, superare la fase 3, che venga analizzata, in cui si veda che c'è un dato sicuro di sicurezza, certo, e di efficacia. Con tanto di pubblicazioni scientifiche, eccetera. Senta, un'ultima cosa gliela voglio chiedere a Brignani, relativamente sempre al vaccino, è perché insomma, leggendo le notizie e secondo il monitoraggio dell'OMS ce ne sono 236 di candidati vaccini, 19 sono basati sul DNA, 30 sono basati sull'RNA, ce ne sono 49 sul vettore virale e ce ne sono anche altri ancora, 18 basati sul virus inattivato. Che caratteristiche diverse hanno e che diciamo potenzialità hanno questi diversi vaccini? Ce n'è qualcuno che diciamo può presentarsi come più facilmente distribuibile con maggiore efficacia, per esempio, o sono tutti sullo stesso piano? Allora, tutti questi vaccini, tutte le centinaia di vaccini che sta cercando di fare, tutti vogliono indurre una forte risposta immunitaria, essenzialmente anticorpale, contro la spike, che è la parte esterna del virus, che il virus usa per entrare nelle cellule umane. Quindi tutti vogliono fare questo, questi primi vaccini, cioè questi 200 che discutiamo. Ci sono fondamentalmente quattro tecnologie che vengono usate da tutti questi 200 aziende che stanno provando a fare un vaccino, quelli che menzionava lei come acidi nucleici, quelli con vettori virali, quelli con proteine ricombinanti, quelli con virus inattivati o uccisi. Quelli che hanno iniziato prima, per motivi molto squisitamente tecnici, che è molto più facile iniziare, sono quelli a RNA o a DNA, sì, e con vettori virali. Però a oggi, se lei guarda sul mercato, di tutte le dozzine di vaccini che abbiamo, non c'è nessuno ad acidi nucleici e ce n'è soltanto uno contro l'Ebola, che viene usato solo in casi di emergenza contro, cioè a base di vettori virali. La maggior parte dei vaccini che funzionano, quelli buoni, quelli il tetano, l'epatite B, la difterite, il meningococco, sono tutti basati su proteine ricombinanti. Quindi se io dovessi scommettere sulla base dell'esperienza, direi che un vaccino contro un'infezione virale acuta come il Covid, con un virus che muta poco come SARS-CoV-2, sarà basato su proteine ricombinanti. Poi se dovesse arrivare prima un vaccino RNA che funziona, io sarei il più contento del mondo. Grazie a Brignani, grazie, buona giornata. A lei grazie, arrivederci, buona giornata. Ebbene, 13:22 minuti, tiriamo un attimo il fiato, parliamo di un altro argomento completamente diverso, cioè della stagione dei festival letterari, normalmente tra la primavera e l'estate, ma insomma, causa il Covid, molte rassegne sono slittate all'autunno. Insomma, settembre resta però il mese di riferimento per il Festival di Mantova e Pordenone Legge. Cambiano i programmi con un mix di eventi in presenza, pubblico contingentato, eventi online, iniziative completamente originali. Di questo si occupa il reportage di Alessandra Tedesco, in onda domani mattina su Radio 24 alle 8:15. Sentiamo un anticipo di questo reportage con la voce di Marta Correini, fondatrice e organizzatrice del Festival della Letteratura di Mantova, in programma dal 9 al 13 settembre. Ci sarà un festival su carta che è all'interno di questo libro Almanacco 2020, come se fossero proprio incontri del festival. Ci sarà una web radio che trasmetterà tutti i giorni del festival per 8-10 ore, si potrà seguire ovviamente sul proprio computer, ma anche in luoghi specifici della città di Mantova. Così come gli streaming, anche gli streaming saranno sul computer, ma anche in luoghi della città dove potrà farlo con una piccola compagnia. Poi c'è invece il festival vero e proprio, quello diciamo più simile a quello degli altri anni, anche se è cambiato in questo senso, sia per i numeri, sia per le file, sia per la prenotazione dei biglietti, che sarà fatta soltanto attraverso internet. E in questo caso ci saranno piazze, quindi sempre all'aperto, con alcune situazioni nuove, la situazione di profezie, 4-5 incontri con personaggi di spicco di alcune materie, che ci diranno dall'alto del balcone della Piazza Santa Barbara, Palazzo Ducale, la loro profezia sul futuro, per esempio sull'architettura piuttosto che sul clima, piuttosto che in altri argomenti, e il pubblico sotto questo balcone nella Piazza Santa Barbara, che con le distanze che ci assegneranno e in piedi per una mezz'oretta sentiranno queste profezie. E va bene, reportage sui festival letterari in onda domani mattina su Radio 24. Adesso torniamo a parlare di lavoro agile o lavoro da remoto, lavoro da casa, come preferite, perché c'è una notizia. Ieri sera il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto con le misure anti-Covid e in vista della ripresa della scuola sono previste misure in materia di smart working, ma anche congedi straordinari per i genitori di figli minori di 14 anni nei casi di quarantena obbligatoria per i figli. Ricordiamo che il lavoro da casa resta, diciamo, la forma principale per le aziende dove è possibile farlo, in base al decreto rilancio che fu approvato lo scorso maggio, fino alla cessazione dello stato d'emergenza che è stata fissata per il 15 ottobre. Ne parliamo con chi sicuramente ha saputo interpretare questo momento. Si tratta del fondatore e amministratore di Nibble, una startup di cui vi andiamo a parlare. Lui è Riccardo Suardi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Benvenuto Riccardo. Allora, si tratta di una azienda che avete sviluppato una app per prenotare, consente questa app di prenotare per chi voglia fare lavoro agile, smart working, non a casa, ma magari in un bar, in una caffetteria a Milano, ma se ho capito bene non solo, vi state allargando anche in altre città. La prima domanda è questa, Riccardo: dove siete presenti, dove vi si trova? Allora, in questo momento noi siamo presenti sulla città di Milano, noi siamo una startup di Milano, ma giusto queste settimane abbiamo iniziato ad aprire le candidature per i nostri spazi in tantissime altre città italiane, Roma, Torino, Bologna, Napoli, perché l'esigenza sta crescendo tantissimo e un sacco di persone, lavoratori, ci chiedono questi spazi anche fuori dalla città e quindi noi stiamo cercando di farci trovare pronti. Ecco, pronti a far cosa? Come funziona l'app? Allora, l'applicazione è un'app scaricabile da dispositivi Apple oppure Android, dove puoi vedere gli spazi convenzionati al nostro servizio, quindi caffetterie, ma non solo, caffetterie smart, spazi di coworking oppure sale meeting. Puoi vedere le informazioni di questi spazi, per esempio quanto è veloce il wifi, se hanno le prese della corrente, se hanno la stampante, quindi servizi che potrebbero agevolare il tuo lavoro, e prenotare una postazione, quindi tu sei sicuro di avere la postazione adeguata nel posto adeguato per il tempo di cui hai bisogno. Spazi che immagino alcuni saranno gratuiti, come i bar, dove ovviamente uno è libero di fare la consumazione, in genere funziona così, ma anche spazi a pagamento come spazi di coworking, dove si tratta di vere e proprie, diciamo, offerte anche commerciali, no? Corretto, quello che noi stiamo andando a fare è, da una parte, per i lavoratori dargli degli spazi diversi. Siamo da tanto a casa e ci sono dei pro ma anche dei contro a lavorare da casa, quindi noi vogliamo dare un'esperienza diversa. Dall'altra parte, per quanto riguarda i gestori, sia per le caffetterie ma anche per altre strutture, vogliamo dare un modo per rilanciarsi e andare a prendere una clientela diversa che magari è mancata nell'ultimo periodo. Quanti se ce lo puoi dire, insomma, quanti utenti, certo, ci sono registrati sull'app e anche quanti punti, diciamo, punti di smart working, tra, sì, bar e spazi di coworking ci sono disponibili? Allora, tra tutti i nostri tipologie di spazi su Milano siamo a quasi 40 spazi diversi, tra sale meeting, spazi di lavoro e caffetterie. Abbiamo circa 18.000 utenti registrati sul nostro servizio solo sulla città di Milano, ma stiamo vedendo negli ultimi giorni che si stanno registrando da tutta l'Italia, quindi per noi questo è veramente un grande stimolo e una grande soddisfazione. Beh, insomma, un buon risultato raggiunto. Al di là di questo, Riccardo Suardi, ideatore di Nibble, ti chiedo che idea ti sei fatto, insomma, di cosa ci attende nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, le decisioni delle aziende sullo smart working. Non è chiaramente il caso di prevedere il futuro, ma dato che con la vostra azienda vi siete posizionati in questo settore, immagino che avrete studiato, certo, un po' anche il mercato, cercando di capire quali sono le idee, le aspettative per i prossimi mesi. Assolutamente, guarda, in questo periodo addirittura ci stanno contattando non solo freelance, liberi professionisti o lavoratori, ma le aziende stesse, aziende che si stanno riorganizzando completamente, sia gli spazi interni, quindi alcuni le stanno ridimensionando proprio perché non hanno più le esigenze di prima, ma quella cosa importante che ci dicono è che non è una cosa temporanea, è una cosa che durerà nel tempo, quindi si stanno rendendo conto che ci sono tantissimi vantaggi nel dare possibilità di lavorare in smart working, magari non tutta la settimana ma solamente qualche giorno, sia in termini di produttività, perché le persone sono più contente di lavorare dove preferiscono, ma anche in termini economici. Quindi quello che noi per esempio offriamo alle aziende è la possibilità di gestire sia gli spazi interni, ma magari utilizzare anche i nostri spazi esterni del circuito Nibble per diminuire i costi e dare più scelte ai propri dipendenti. Quindi sicuramente quello che posso dire, quello che prendiamo dalle aziende ad oggi, è che non è una cosa temporanea, non sono delle attività fatte solo fino a che, diciamo, l'emergenza passa, ma è una cosa a lungo periodo, quindi le aziende si stanno molto portando avanti e per noi sicuramente è un punto a favore, nonché beneficiamo tutti di questa cosa. Grazie Riccardo Suardi, fondatore di Nibble, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buona continuazione. E insomma, vedremo poi come si riorganizzeranno anche le città. Con questa app si tirano in ballo anche i locali, no? I bar, ma non solo, insomma, che in questa fase hanno sofferto molto per via anche dello smart working, perché mancando l'aggregazione sui luoghi di lavoro, le persone rimanendo a casa, sono diminuiti anche i consumi da questo punto di vista, e chissà che invece app come questa non possono, diciamo, far ripartire anche questo settore. 13.30, facciamo un piccolo break, torniamo tra poco dopo le informazioni di borsa e parleremo di test rapidi a scuola, test diagnostici per il Covid, naturalmente parliamo di questo e anche un po' in generale con il professor Zuccotti, cosa ci si può attendere dalla ripartenza della scuola per quanto riguarda anche le ultime notizie sulla trasmissibilità del coronavirus tra i più giovani, a tra poco. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Polmonite bilaterale per Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele. Prossimo bollettino sanitario alle 16. Il super bonus del 110% per l'edilizia diventerà strutturale, così il ministro Patuanelli. Vaccino, l'Europa accelera, pronte le prime dosi già a novembre. Scuola, il governo pensa a test rapidi in caso di febbre di un alunno, più rapidi e meno costosi dei tamponi. Calcio, stasera torna in campo la nazionale a Firenze contro la Bosnia. Eccoci qua, 13.36 minuti, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. I vostri messaggi del 349-238-6666, anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Allora, leggo un po' di scetticismo sulla possibilità di fare il lavoro da casa, ma al bar, che è l'idea della app di cui abbiamo parlato poco fa. Lavorare al bar con tante faccine sorridenti. Poi un altro ascoltatore dice: non ha senso per il Covid lavorare in un bar. Capisco il vostro scetticismo, effettivamente può sembrare strano, come dice andare in ufficio dove c'è gente, va in un bar dove c'è comunque gente, però intanto si salta il passaggio del viaggio, no? E quindi si evita per esempio di dover affrontare mezzi di trasporto affollati, questo non va sottovalutato. Ma poi soprattutto credo che se il lavoro da casa diventerà strutturale anche senza Covid, allora l'idea di condividere gli spazi disponibili nei bar sia un'idea, non dico vincente, ma insomma ragionevole, coerente con la situazione. È il momento del punto del vice direttore del Sole. Il punto di Alberto Orioli. Papa Francesco saluta banchieri e imprenditori riuniti al Forum Ambrosetti di Cernobbio con un messaggio che li invita a una conversione ecologica per poter rallentare, dice lui, un ritmo disumano di consumo e di produzione, per imparare a comprendere e a contemplare la natura e riconnetterci con il nostro ambiente reale. Quindi ambiente, Europa, giovani diventano i tre pilastri per questa riconversione ideale dell'economia. Scienza d'elezione, dice il Papa, per dare corso a questa nuova sensibilità su vasta scala. In realtà la finanza, la cui parte più cinica e incline all'avidità è uno dei bersagli classici di Papa Francesco, è già all'opera. E anche al forum di Davos, dove convengono i miliardari del mondo, è stato chiaro che la sostenibilità è diventata un business. Ed è diventata conveniente. Non sono i denari che mancano, ci sono i capitali dei fondi privati in cerca di buone idee, e oggi gli investimenti in sostenibilità valgono 23 mila miliardi di dollari nel mondo. E poi c'è il Recovery Fund europeo. Bisogna solo imparare a progettare il futuro, ed è la cosa più difficile, perché bisogna saperlo guardare il futuro, e per farlo bisogna distogliere lo sguardo dal proprio ombelico. Allora, alle 13.39 minuti è con noi Gian Vincenzo Zuccotti, preside della facoltà di medicina alla Statale di Milano, ma anche primario del reparto di pediatria del Buzzi di Milano. Benvenuto. Buongiorno a voi. Eccolo qua, Zuccotti. Allora, per parlare di due o tre cose che riguardano, da un lato, la proposta del governo di fare test rapidi a scuola, per in caso di una positività, test rapidi a tutti gli studenti della classe per fare velocemente e spendere possibilmente anche poco, e quindi procedere a un tracciamento da questo punto di vista qua, e poi un pochino più in generale anche per quanto riguarda le preoccupazioni, le aspettative che ci possono essere circa la trasmissibilità del virus tra i bambini. Si sono dette molte cose, si sono lette molte notizie nelle ultime settimane. Per quanto riguarda i test rapidi, di che si tratta? Che affidabilità hanno? Lei cosa ne pensa? Potrebbero essere uno strumento utile? Allora, quello che noi andiamo a proporre assolutamente sì, nel senso che noi raccoglieremo queste due gocce di sangue che vengono poi posizionate direttamente anche dai genitori, cioè noi chiederemo ai genitori di farlo direttamente a casa loro, forniremo un kit dove c'è questa carta bibula, un pungidito, e quindi raccolgono queste due goccine di sangue e poi le riportano a scuola e noi andremo a fare il dosaggio degli anticorpi su queste goccine. Questo non è il classico test rapido che siamo abituati a sentire, che non ha una grandissima sensibilità. Questo in realtà noi su queste due goccine riusciremo a fare un test immunoenzimatico, un test ELISA, che è quello che si fa su prelievo venoso. Quindi questo è il grande passo in avanti di questa metodica. Quindi una semplicità di raccolta che può essere fatta anche al proprio domicilio, la possibilità di processarne tantissimi. Noi per esempio nella nostra realtà oggi così abbiamo calcolato che potremmo farne anche 30.000 a settimana, e con un costo veramente molto molto molto contenuto. Quindi numeri e costi che possono consentire un impegno maggiore, ma molto maggiore rispetto a quello consentito dai tamponi, se ho capito bene. Assolutamente sì, cioè, nel senso è ovvio che i tamponi e i test serologici hanno due finalità diverse, certo. Ma io credo che nel momento in cui si riaprono le scuole, come giustamente diceva lei, dove si è detto forse anche troppe, anche cose un po' imprecise, adesso leggevo poco fa di quello che è accaduto in Francia, che hanno chiuso 22 scuole, 100 classi, insomma io credo che bisogna aprire le scuole assolutamente, ma bisogna accompagnare sia i ragazzi che le loro famiglie, sì, con una sorveglianza epidemiologica, quindi certo, sapere quando entrano, a che punto sono, e capire dopo un mese, dopo due mesi, insomma noi l'abbiamo proposto ogni tre mesi, come si modifica, certo, l'incidenza di questi anticorpi, se c'è una differenza per esempio per classi di età, perché magari possiamo scoprire che circola molto magari tra i più piccoli ma in maniera sintomatica, e magari meno tra i più grandi ma in maniera, ecco, più importante. Quindi questo è importante ricordarlo, perché insomma, abbiamo detto tante volte fino allo sfinimento, ma lo ripetiamo perché c'è anche dello scetticismo rispetto al fatto di fare i test, per esempio questi test sierologici per gli insegnanti prima dell'inizio della scuola, a cosa servono, eccetera eccetera. Beh, insomma, il concetto è sempre quello, ce lo state insegnando voi ancora una volta: più conoscenza si ha, più consapevolezza si ha sullo stato di diffusione del virus e sullo stato di salute di ognuno di noi, meglio stiamo. Senta, a proposito di quello che diceva lei, cioè sul fatto di che questi test potrebbero servire proprio a questo, ad aumentare la conoscenza, a che punto è la conoscenza oggi sulla trasmissione del coronavirus tra i bambini? Ci sono pochi casi, ma mai zero casi. Recentemente anche il professor Burioni ha posto l'attenzione sui dati che vengono dagli Stati Uniti, dove ci sono tantissimi casi di contagio, quindi c'era un campione da analizzare. Insomma, ha parlato di 4.000 malati e oltre 100 bambini vittime. Cosa si sa su questo e anche sulla trasmissibilità da parte dei bambini nei confronti degli adulti del coronavirus? Certo. Ma allora, anche su questo tema si sa veramente molto poco. Sono degli studi che vengono un po' dall'Europa, un po' dagli Stati Uniti, che ultimamente hanno, a mio avviso, evidenziato quello che onestamente credo che chi fa soprattutto il pediatra l'ha sempre pensato, cioè che i bambini albergano il virus e molte volte hanno anche delle cariche virali che sono, come dicono negli Stati Uniti, addirittura superiori agli adulti che sono ricoverati in terapia intensiva. Ma questo è abbastanza normale, i bambini sono sempre stati dei grandissimi trasmettitori, cioè credo che chi ha figli sa benissimo che quando questi vanno a scuola si ammalano fra di loro, si contagiano fra di loro, magari molte volte loro sono anche paucisintomatici, poi portano a casa qualsiasi cosa, e quindi i familiari sono le prime vittime. Quindi pensare che i bambini per il coronavirus siano esenti da questa modalità mi sembrava abbastanza curioso. I dati sono pochi perché, ripeto, sì, le scuole sono state chiuse immediatamente, quindi non abbiamo, e questo è importante oggi alla riapertura, che torno a dire, non dobbiamo aver paura, dobbiamo, sì, riaprire, perché il mondo va avanti, la conoscenza, la cultura, i bambini non possiamo sottrarli, li abbiamo già segregati per molto tempo, però dobbiamo accompagnare sia loro che i loro genitori familiari per cogliere delle variazioni, eventualmente anche per fare degli interventi un po' più mirati. Quindi non c'è bisogno magari di fare un lockdown totale, ma verificare. Anche ieri sul Corriere, anzi oggi, io avanzavo anche questa ipotesi, addirittura di creare delle unità mobili, perché se c'è una scuola che segnala un bambino che sta poco bene, si intervenga con l'unità mobile in quella scuola, si fa il tampone a quel bambino, che se poi è negativo tutti a casa tranquilli, se invece fosse positivo lo si fa anche agli altri ragazzi. E questo vuol dire evitare di creare quarantene, se no la scuola viene chiusa, i genitori rimangono a casa. Cioè, non credo. Assolutamente. Che quello è il metodo proprio per richiudere tutto immediatamente. Bisogna fare invece investimenti di questo tipo se vogliamo, ripeto, aprire in sicurezza e dare sicurezza ai bambini e alle loro famiglie. Grazie professor Zuccotti, grazie per essere stato con noi. 13.45, il blocco di Effetto Giorno non si può chiudere senza le anticipazioni di tutti i convocati. Carlo, ciao. Ciao Alessio, tra il rosso e l'azzurro. Perché? Perché rosso come sbiadito, quello della Ferrari, perché si è aperto con le prime prove del mattino, non sto a dirti i risultati perché ci viene una depressione, però contano poco, undicesimo, dodicesimo, diciannovesimo, Leclerc e Vettel. Si apre il weekend di Monza e stasera torna la nazionale dopo 291 giorni, 10 mesi, contro la Bosnia, partito già ufficiale per la National League. Quindi sarà un piacere rivedere questo azzurro, sperando che insomma diventi sempre più ampio. Si rigioca contro l'Olanda la settimana prossima, ma soprattutto a questo punto ricomincia l'operazione europea che era stata interrotta per ragioni ben note. Grazie Carlo, appuntamento naturalmente dopo il GR delle 14. Pensavo tra rosso e l'azzurro che si riferisse anche alla telenovela di Messi, invece no, forse parlerete anche di questo. Carlo, c'è ancora? Sì, no, non c'è più naturalmente. Traffico, torniamo tra un attimo.